come se solo sono contento, lavoro sono contento di che mica la fondo scala che tu fai già. Beguccio è infatti, ma infatti. E i vanno a Bertoli. Sì. Però non mi intendo come molto lì, Vabbè, se tu Roberto ma occupato. Roberto, se non ti intendo, c'è colonnina. Ecco, è che lei che ne fa aumentare. E noi siamo senza, però si esterna. Aspetta, vedi, Cazzo, mi dico, stavo là che sono... Se vuole di si usa, di sapicata, per cui darà. E su questo ci sono. Grazie a tutti. buona pizzetta, allora comprati, ci sentiamo, vai. Fai gli auguri anche a tua famiglia qui, ciao. Ciao, ciao. Camminando, perché così anche la macchina del baracchino, lo smettere. Se dovessi guardare adesso da Mario, apparecchi spenti, camminano così mi fa lui a me, capito? Non lo so, come da me, ma lo stesso mi fa così un pochino. Lo smettere, ma così va. Perché c'è il ritorno in radiofrequenza, capito? Fa quel lavoro. Capito? Sì, è così, è vicini siamo ancorati, in realtà mi sono ancorati, il tirante mio va alla gravatta sua, e la gravatta sua, il tirante suo va alla gravatta mia, capito? Per cui sono collegati una con l'altra, capito? Già lo so, come, sì, le ho viste le antenne, come sono collocate. E poi che sono tirate d'acciaio, capito? Non sono tirate di corda, capito? Le corde sono corde metalliche, capito? Così che anche per quello che irradia parecchio il ritorno della radiofrequenza è più forte, mentre invece con la corda è di meno, capito? Ma perché non avete messo la corda? Perché non devo stare sempre salendo su, capito? Una volta abbiamo fatto per sempre e non ne cado più, capito, con le antenne. L'antenna si può fasciare, ma non tubo non ne farà mai. Ecco perché magari se ne scende l'antenna è una roba leggera, ma se ce ne scende il tubo, vede, questi che abbiamo dovuto per forza fare quel lavoro, per essere una cosa più sicura, capito? Certo. Se vado io sul tubo, guardo in pedale, uia. Già lo so, già. Se vado io su un capo lì, a mare. Sì, lo capisco benissimo. Quelle antenne sono ancora per bene. E ci mancherebbe. E no, che bel colpa di un castigato che ha fatto un bel danno. Non ha potuto munire l'antenna sopra. Lo so. Purtroppo, sa quante volte gli abbiamo detto, ma non sono sani, no? Se fossero le persone sane avrebbero fatto come è stato consigliato, sarebbe stato l'ideale, però con quelli è inutile a dire la cosa, perché magari non c'è bisogno che tu dica queste cose, le sapete meglio di me. Nella porta accanto, se vuoi immaginare come li conosciamo noi. Sì, ma già ne sappiamo queste cose, dai, ne sappiamo, purtroppo è così, purtroppo lo sai cos'è, che da umano di piangere l'uomo, ma è così sempre, che pensata sempre così la persona. Questi non sono salvi in capo, allora chi sono stati mancati, a mancati rimane, basta le taglie, ha levato poco macello, basta che non si vuole più morire nella mortata a me, è inutile di dire la cosa, con i buoni, ma peggio di pazzia, così che la voglia di trovarsi felice, ma le piace, non mi interessa, ma caldo, mi buona bottate, e ci sono tutti e mi nato, altri che danno gioco. E ha fatto il sagomano e basta. Li ho lasciati sempre perdere e bisogna fare così anche con gli altri, non ce ne sa fare. Meno male non saremmo tempi la portata, altrimenti ogni tanto se la buonia che andava a abitare tu con noi, altrimenti. Oh, non sto facendo niente, non sto disturbando a nessuno, no, io. Sai perché anche? Perché poi le antenne si vedevano anche. E per quello è che c'era qualcosa lì. Perché di quanto poi la porta intera si chiudia tutto a fondo. Infatti, è così ci vuoi fare, purtroppo. Certe persone è inutile, non c'è niente da fare, sono nati così e così si nata, capito? Bisogna evitare per avere conseguenze, capito? Perché è sempre rotto di cazzo, su, capito? E se vai a fare cose magari dalla parte della ragione poi puoi passare al corpo, meglio evitarle essere puliti e tranquilli, capito? Al tuo, quello di cui bisogna essere sempre puliti e tranquilli e lasciar perdere tutti. Scappa, perché sai di Dio, già lo so, Giomari, non è combinato, non è, la poesia di noi a essi. E tu già te lo ricordi la prima volta che entravo, te lo ricordi come mi facevo chiamare, poi dopo un po' di tempo, vediamo se te lo ricordi. Ehi, già me lo ricordo, come no? Già me lo ricordo io. Io sono convinto che mi faccia chiamare per non farmi riconoscere, perché allora ero anche piccolo. Mi piace, mi è sempre piaciuta la radio. Facciamo chiamare Giovanni Fabricamuro. Sì, va bene. Ognuno può stare come vuole, l'importante è una persona che si comporti bene, quella è la cosa più importante. Perché non conviene, non conviene, magari. Lascia sapere i neri, capita di tante che hanno ragione, ma io ci sono più di 40 anni, ti puoi immaginare, è nato in chiesa, mi nato in chiesa davvero, ehi, non hai neanche tu. In 43 anni forse io. E io sono con 43 anni, un sacco. Ti puoi immaginare, è nato in chiesa di amico, purtroppo sì. Però, sì, qualche volta, qualche parola a qualcuno, però non più tanto, non mi piacciono, le minacce, i rispetti non mi piacciono, io sono fatto così, le minacce, i rispetti non mi piacciono a farle, per cui, ma prego, e sono tutti minando, boh! Scappa, come ti siamo, come ti sono attrezzata, va! Se doveva stata chi si abbassona, avrebbe spento anche la radio perché avrebbe preso tanti di quei colpi che non venne bene a dirlo. Lo sabbismo adesso faccio le radio a vero, prima era con un baracchino, non molto, cioè così da, ma poi invece curo forte. Faccio pure la ciuffa, attenzione. Sì, ma non fare più niente, mi pare. Un giorno l'ho trovato via la Cocco, di piccolo è. E si vede che non aveva soldi e stava prendendo l'alimentatore per la 70 gira, 15 ampere. Vabbè, fammelo vedere, me l'ha fatto vedere. Ho fatto 20 euro e l'ha dato a me l'alimentatore da 15 ampere, ce l'ho io, ma adesso non c'hanno più niente. In compenso già per l'altro, finalmente, l'altro vizzino. Ah, e infatti. C'è tanto stato con me nella portante, lo sai. Fammelo dire. Te lo dico, l'altro vicino, ma sono con gli avverani buruetti, che gli è rimasta qualcosa, che due vizzino, l'altro vicino, te lo ricordi, a Muscimiano. Ehi, buonami. Stato ci prova, ma non c'è storia, poi ce ne andiamo su un altro canale che lui non ci arriva e non mi fate più niente. Buongiorno a tutti, anzio, c'è da quella di... Tiso, ciao già, buongiorno. Ehi, Tiso, cicchi, ciao bambino, oggi Mari. Mi ha detto che non ha portato, mi è buono, lo sai. Ehi, un tempo lo faceva. Ma no, non lo vedevo, romano non va di Aburovisso, su Travaglio. Spatia incatta Mario, fatia incatta. Mario, di ogni maniera, ragazzi, ne vedi via. Ma non li ho più sentiti, non penso che ce l'abbiamo più, non lo so. Ogni tanto quando passo lì vicino, li vedo. scopi salutano e Stadio Marini, bene, e noi a passo da voi, passate così domani. Proprio Romano, è Romano che ancora è convinto di voler portante, ma è occhi, non ve la faccio. Ma te la faccio a casa io però, mi raga a casa che non mi guarda, che c'ha portante a fondo scala, non lo so, guarda quella portante, sono tutti mi nato, non sei chissà ragione. Mi sono lasciati sempre, mi saranno sempre i saietti, perché a fuori dei musini passano qualcosa, ci sono tutti i pinnati, anche ci sono altri cose da qua. E momenti, vabbè, buonasera a Chiazzani, scusa, c'era un picchio poco. E così via. Vabbè, riprendi già, va. Io mi aspetto 5 minuti e eventualmente se ti senti riprendo fra 5 minuti. Cavalla la bibita qua, un brasiliano qui. Ah, ti ho mangiato, però un caffè, con la giubilato. Ah, ma ti sei affronto, guarda, pigliamino. Riprendi già, tu vai. Ah, ciao Giovanni, dai, auguro che se non ci sentiamo. E buon brasiliano, io me l'ho già preso adesso, dai, prima di partire devo prenderlo. Cava cava. Anto, tu va a 4 in Kibi, non è che siete assai. Non è che siete assai in Kibi, la fiotta. Lo manco, dici che ci sono convinto. Da poi viene c'è la cacca che sono 4, che non va di... E tanto a me non mi pensa ne più. Io non so, Goya. A me non mi ha mai piaciuto pure la portata da niente, io ho sempre papizzato l'apparecchio. Pure io la vendita. È bravissimo, ma papizzato l'apparecchio lei va pure la portata. E quando va via meglio toccai, va via lo cercalino, va via, via. Pigisce, si pure che c'è il cercalino, non c'è di pace, non c'è niente, non passava di giù. Ma non so, Goya. Era un bel penetrante, infatti se mi ha giocato non me l'ha ritenuto il toccai. Che mi piace fare anche come apparecchio. Quello lì, bastava prendere quello lì. Lo fa vita la benissimo. Papà, guarda, rimane a sera. Qualcuno se la da Vicente sera. Oh, aspetta che c'è Capri 2, che se non lo secolo che non lo sento più. Capri 2 con la buonasera, va, va. Adesso la Urbia, sono mi parto adesso, da poco, con tutta la famiglia siamo a vedere l'ora pausa. Sì, una bella traletta esa, io niente, non esco perché non la perdiamo. Yeah. progetto fa. Non a Venezia, a Firenze. Non fa noce per Venezia, come no, Firenze. Sono andato a Firenze, Firenze e Pisa, e poi siamo tornati. Ma noi già giriamo molto spesso il continente, però diciamo che Olbia è l'unica città continentale che ci abbiamo in Sardegna. Ricco! Però direi quello lì, dobbiamo essere rimosso la PM, andare. Ecco, Ricco! Un attimino! Sì, devo scendere a casa. Stavo parlando. Forse prima di rientrare al Trattaco ci farò una questi greca perché ho numero di ubiti che non ne posso fare meno. Però Olbia, giusto, è meglio andarci d'estate già. Ma vaga, va avanti questo prego. Buongiorno, ben sentiti, qua International, buongiorno. Ciao International, buongiorno anche a te. C'è Antonio che diceva qualcosa, avanti Antonio. Brava, buonasera International. Buonasera a tutti. Io sto chiamando per vedere se c'è Vagabondo in compagnia vostra. No, negativo, Vagabondo non è entrato qua. E dove c'è diretto International? Ma cosa c'è in camper? Cavarogero, Cavarogero, direzione Ruturru, vicino a Farru. Da vagare. Vabbè. Cosa c'è lì di speciale a Ruturru? Di speciale c'è agriturismo e più andiamo alla Laura Foasini. No, ma dico qualche concerto, qualche cosa del genere. Scoppiato, ripeti. C'è qualche concerto dentro. A Olbia poi andiamo, no, da lì sono 20 km. Anche io vado lì, Ci siete attratti? Magari ci sentiamo su strada, dai. Io c'ho una station Vego, un'altra station Vego. La sai tu? Ah, tu, cosa ne vedi? Già, ho comparato il vizio di subito dell'Oriata, ma è così buono, caro. Chiaro. Sono la prima 5, la presa prima in culo. Va bene, aspetta un attimo, ne lasciamo a Capilue che lui ha voglia sempre di parlare tanto. Ho sempre voglia di parlare tanto, quello vuol dire. Se non parlo qui con zitto, non parlo. Ma faccio una cosa taciturna. Ma Antonio, sentito, non è venuto a Pontorio a farmi visita stasera, porta anche la sua 25 a farmela conoscere. Va bene, bene. Allora sarei contento. Patrizia, devi accognare. dolce qui, appena frizzantino, invece quello che mi ha dato palocchetto rimane dolce all'inizio, poi finisce con un amarone lo gradevole però, ed è forte, caspita, quello che mi ha dato palocchetto è forte. Faccio 4 frizzate, mi faccio. Tanto questa sera non ci sono, fatemi le registrazioni così almeno vi ascolto, almeno se, anche se non sono in diretta vi ascolto. Tu non sai, capri due, che a Natale abbiamo fatto il concerto al Baracchino. Io ho un concerto che non ho preso parte perché anche non mi sono fatto, volentieri avrei partecipato almeno all'ascolto. Il biglietto da visita per cantare era devi essere cotto. Avanti. quando senti. E lui non ha problemi di donne perché c'ha verba. Conosce il mio fine battore di sassa. E chi è? Lei. Ma che no, a me mi piacciono le labbra, capito? Carlose, capito? Paura con questa strada della sassa di Nubia, guarda che fa cosa. sbagliato sì su Pizzino. Prosta, non è neanche la moglie. gambe tutti da giovane, l'ho fatto i mandrilli, dai. Ma poi com'è? Si cresce, si cambia. O tu non hai cambiato, la circolo di sviluppo per del pelo, ma non è il vizio. Ok, già. Io non posso perdere tutto il pelo, però il vizio rimane. Sì. Vabbè, ricordo sempre di un amico che era un mandrillone, andavamo in discoteca insieme, si rivolgeva alle ragazze, questo e quell'altro, eccetera, eccetera. Poi siamo sposati, sono andato a trovarlo a casa per il battesimo del figlio. Siamo stati alla Francesca per gli orecchi, e beh, con le donne come va? Oh già, il lupo per il pelo ma non è figlio. Cosa facciamo? Dopo la mezzanotte... che concertino, però no, dopo la mezzanotte c'è la pausa, mezzanotte l'una fa la pausa di fare. Che prima c'è quella cantata di Maria di Filippi e quella lì forse non la vediamo, perché ceniamo, però facciamo il cenone e poi andiamo lì. Okay. non prendere né per niente, così non rischiamo. Allora Marco Lemme non è né spara per tardi, perché non mi piacciono queste cose qua. Sono contrario, io ne ho visto troppe di persone chiamate da queste cose qua. Addirittura uno con la scaccia al cane si è buccato la mano da parte in parte. gente, famiglia, e buon inizio del nuovo, dai. Avanti Antonio, poi c'è anche Falchetto che ha bussato, mi sa. Yeah.